Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, puntata di rientro dalle vacanze del nostro programma, una puntata di rientro dedicata al tema della casa, il vostro tema sicuramente preferito, e in particolare all'ape, non all'animale, ma all'attestato di prestazione energetica. Perché parliamo di questo argomento? Molti di voi lo ricorderanno, ad inizio agosto, a causa di un emendamento presentato alla Camera dal Movimento 5 Stelle, approvato poi dal Governo e dalla Commissione Finanza, nel periodo intercorso, era il periodo in cui appunto era il periodo che intercorreva fra l'approvazione del decreto legge 63, il decreto sui bonus casa e la sua conversione in legge, il quadro appunto per il mercato del mattone già in grande rallentamento ha rischiato di complicarsi ulteriormente per questo emendamento. Perché? Perché questo provvedimento prevede che un qualsiasi contratto di vendita, di donazione o di locazione di una casa, di un immobile che non abbia l'attestato di prestazione energetica, e cioè l'APE, sia da ritenersi nulla. La Confedilizia, l'associazione che raggruppa i proprietari di case, in quei giorni scese subito in campo, anzi scese proprio sul piede di guerra, chiedendo al governo di intervenire quanto prima per eliminare la norma, e nella giornata di approvazione della norma stessa di inizio agosto ha addirittura emanato una circolare imponendo alle sedi territoriali di bloccare tutti i contratti di locazione che erano pronti alla firma. Cosa è cambiato in queste settimane d'agosto? Come funziona allora l'APE? Cosa prevede? Quali le sanzioni per i proprietari di immobili che non rispettano l'obbligo di redazione di questo documento nei casi previsti? Cosa succede per chi affitta? Che regole devono rispettare i contratti di locazione? Tanti i temi all'ordine del giorno, stamattina ne parliamo con Cristiano Dell'Ostri, Il Sole 24 Ore, eccoci qua infaticabile. Sei andato un po' in ferie? Sì, speriamo di sì, Cristiano. Sempre troppo brevi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma d'altronde il tema di cui ti occupi, quello della casa, è un cantiere costantemente aperto, proprio il caso di dirlo, per cui bisogna presidiarlo con grande attenzione, proprio come ha fatto anche il notaio Angelo Busani, esperto del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Proprio per la giornata di sabato scorso ha curato una pagina molto articolata per il Sole 24 Ore sull'attestato energetico, pagella sui consumi anche per chi affitta, così si intitolava, e poi abbiamo collegato telefonicamente Corrado Sforza Fogliani, che è il presidente di Confedilizia, l'associazione che raggruppa i proprietari di immobili. Presidente, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere ritornato con noi proprio nella giornata che citavo prima, quella dell'inizio agosto, mi sembra il 5 fosse, appunto ci dedicò il suo tempo nella trasmissione Focus Economia per spiegarci esattamente cosa fosse successo alla Camera e perché Confedilizia si era così tanto arrabbiata. Allora, naturalmente, visto che Salva Danaio riparte a regime, naturalmente a regime partono anche le vostre richieste di intervento, se volete farle all'800 24 0024 per intervenire in diretta. Potete anche scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo di posta del nostro programma salvadanaio@radio24.it. Visto che è tornato con me anche Marco Lombardo, siamo super operativi anche su Facebook e su Twitter. Prima di tutto questo però un'occhiata a questa brusca giornata di borsa. Brutta per i motivi che dicevamo, chissà se arriva, speriamo di no, questa crisi di governo. In ogni caso il mercato oggi già sembra scommetterci un po', perché il listino di Piazza Affari perde il 2,11% ed è di gran lunga il peggiore d'Europa. Parigi scende dello 0,6%, Francoforte meno 0,3%, Londra è chiusa per festività. A Milano vendite molto forti su Mediaset, che perde 5 punti, su G-Tech, l'ex Lottomatica, meno 4, per i titoli bancari la Popolare dell'Emilia Romagna la peggiore, meno 3,77%, Unicredit meno 3,63%, Banco Popolare meno 3,42%, Fondiaria Sai meno 3,38%, A2A meno 3,27%. A gettare benzina sul fuoco ci si è messo anche un illustre economista, Nouriel Roubini, che dalle pagine di Repubblica questa mattina ha detto: attenzione, l'instabilità politica italiana, i timori di crisi di governo potrebbero riportare lo spread a quota 300 punti base nel giro di pochissimi giorni. Oggi il differenziale sui titoli di Stato, appunto italiani e tedeschi, i titoli decennali, vale 247 punti base, settimana scorsa era sceso sotto i 2,40, quindi la tendenza era sicuramente migliore, virtuosa. Oggi ha ripreso a salire, ma tutto sommato, insomma, ci sembra almeno in queste prime ore della giornata ancora una tenuta. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Il miglior titolo di Piazza Affari è la Popolare di Milano, guadagna lo 0,25% per questo gruppo. Intanto ci sono delle richieste di cambiamento della governance da parte della Banca d'Italia e poi si è riaccesa un po' così la speculazione sul titolo, perché potrebbero esserci delle popolari pronte ad aggregazioni in Italia e, a quanto pare, a giudicare dalla reazione del mercato, questa è la banca che potrebbe beneficiarne di più. Euro su dollaro 1,3373. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, parliamo di casa e dell'attestato di prestazione energetica. Tegola sul mercato del mattone. Dal 5 agosto, qualsiasi contratto di vendita, di donazione o di locazione di un immobile che non abbia l'attestato di prestazione energetica APE è da ritenersi nullo. L'obbligatorietà di allegare l'APE ai contratti di affitto e compravendita era già prevista da un decreto legge entrato in vigore il 6 giugno scorso, accogliendo una direttiva europea. Ma con l'emendamento presentato alla Camera del Movimento 5 Stelle, che prevede appunto la nullità dei contratti, il quadro si è fatto più complesso. Ma vediamo più da vicino in cosa consiste l'attestato di prestazione energetica, salvo modifiche che potrebbero essere apportate dal governo. Tutti gli immobili dovranno essere in possesso dell'APE. Rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, l'attestato è obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti è richiesto solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento ha una durata di 10 anni dalla data dell'emissione e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. È bene precisare che non tutti dovranno rifare l'analisi energetica del proprio edificio. L'obbligo di dotare la struttura dell'APE, l'attestato di prestazione energetica, viene meno dove già sia disponibile l'ACE, l'attestato di certificazione energetica in corso di validità. Multe salate per chi non si adegua alle nuove regole, da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme, da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita, da 500 a 3.000 euro per il responsabile dell'annuncio di vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell'immobile. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. In alternativa scriveteci al 349 238 6666. E Max da Pinerolo commenta subito: bella stupidaggine, ho acquistato un rustico diroccato, ho dovuto richiedere l'attestato. Max, che vogliamo fare? Qua dobbiamo adeguarci. E intanto la notaio Busani vedo subito che dice no, perché ci ha fatto un errore il nostro ascoltatore. Ma sì, perché per i rustici diroccati non occorre l'APE. Ecco, e quindi Max, poveretto, già considerava una stupidaggine la notizia della quale parliamo oggi. Si vede oggi che non era così rustica e così diroccata. Ecco Max, magari allora lo contattiamo telefonicamente, così ci facciamo confessare. No, notaio Busani, visto che ha già preso possesso del microfono, ha stipulato dei rogiti in queste settimane, oltre a scrivere per il Sole 24 Ore? Pochi, stante la crisi del mercato. Ecco, no, ma perché mi sembrava interessante capire da lei se ne avesse annullato qualcuno. Ma noi in Lombardia stiamo abbastanza bene, perché avendo la regione legiferato da anni sull'argomento, noi alla fine applichiamo la legge regionale, non quella statale, in linea di massima, sulla maggior parte degli aspetti, e quindi da noi c'è stato un paio di giorni di fibrillazione, ma poi tutto assolutamente subito è rientrato. Molto bene. Allora, Cristiano Dell'Oste, volevo ripartire con te per fare ordine nella questione. Allora, l'APE in realtà, ce lo diceva appunto tra le righe il notaio Busani poco fa, la conoscevamo questa certificazione, non potevano intanto mantenere lo stesso nome, ACE? E diciamo che questo bisognerebbe chiederlo a chi ha recepito in questo modo la direttiva europea con il provvedimento di giugno. In realtà, ecco, perché tutto ci casca addosso, perché intanto dobbiamo adeguarci a delle normative europee sul tema. Ma sì, diciamo che la certificazione energetica in Italia è ormai un qualcosa che esiste da qualche anno. Poi chiaramente, come accennava già il notaio Busani, dobbiamo fare i conti con il fatto che abbiamo una norma nazionale e poi abbiamo tante normative regionali. Non in tutte le regioni c'è una normativa, ma dove c'è, questo è il criterio dettato dalla cosiddetta clausola di cedevolezza, dove c'è una norma regionale prevale quella regionale, almeno per quanto riguarda le modalità di calcolo della certificazione e le eventuali sanzioni per chi non si adegua, sanzioni pecuniarie. Poi c'è l'aspetto significativo è che dal 4 di agosto, per tutti gli atti stipulati a partire da questa data, entra in gioco anche la sanzione civilistica, non monetaria, della nullità del contratto, dell'atto. E allora qui si cambia un pochino prospettiva, soprattutto la si cambia in tutte quelle regioni dove non c'era una legge. Mm-hmm. Pensiamo ad esempio al Lazio, per dire una grande regione, e quasi tutto il centro-sud non ha normative regionali. In questi casi entra in gioco appunto una sanzione molto pesante che rende sostanzialmente indispensabile allegare all'atto di vendita, ma non soltanto, anche alle nuove locazioni, la cosiddetta come dire APE, dicevamo, no? Prestazione energetica. Poi in realtà non cambia nulla rispetto all'ACE, per ora ha cambiato soltanto il nome perché non ci sono ancora i nuovi metodi di calcolo. Certo, quindi intanto grosso problema la differente situazione esistente sul territorio su scala regionale. A proposito della questione sanzionatoria, notaio Busani, qualora lei validasse un rogito senza APE, a lei appunto che sanzione cadrebbe in testa? Che sanzione rischierebbe? No, non voglio neanche pensarci, perché ecco, la sanzione è gravissima, per carità del cielo. No, però tanto così magari ci fosse qualche notaio furbetto. Il notaio viene sospeso dalla professione, addirittura. Quindi è un pasticcio gigante. La nullità è una sanzione sproporzionata, perché bastava farla se avessero usato non un'ascia ma un bisturi, come in questi casi ci vorrebbe la cosiddetta nullità relativa, cioè quella che è rinunziabile dall'acquirente e non crea grandi disastri come invece crea la nullità, perché si è detto non c'è sanzione è una sanzione che non è pecuniaria, no, c'è anche una sanzione pecuniaria, perché chi paga e dà i soldi al venditore paga inutilmente, perché non ha acquistato un bel nulla e ha pagato. Bisogna che il venditore sia onesto e li restituisca, e ce li abbia soprattutto. Certo. Mettiamo a caso che questi soldi sono andati a pagare un mutuo del venditore che era in corso di ammortamento di un mutuo, l'acquirente non vede più i soldi e non ha la casa. Ecco, questo è un gigantesco pasticcio. Cioè è stato usato un metodo sproporzionato, andava bene la nullità ma ritagliata a dovere. Faccio altri esempi. Che senso ha, se io possiedo i 7/8 di una casa, quando compro un altro ottavo, l'ultimo ottavo, di avere di nuovo l'APE? Che senso ha se compro da mia moglie? Che senso ha nei trasferimenti tra parenti stretti? Che senso ha in una donazione? Cioè ci sarebbero tante cose. Esatto, quella della donazione è una questione effettivamente molto importante, perché se tra padre e figlio effettivamente c'è un trasferimento di immobile, per quale motivo deve essere allegato? Una norma scritta così vuol dire, prima di tutto viene l'informazione al mercato sulla prestazione energetica dei fabbricati, perché APE non ACE, perché attestato di certificazione energetica voleva dire certificato di certificato energetico. Invece APE è un po' più dettagliato attestato, il nuovo documento, cioè certifico la prestazione energetica del fabbricato, vuol dire quanto il fabbricato, per come è fatto, consuma di energia per essere raffrescato o riscaldato. Questa è la prestazione energetica. Allora, se facciamo una norma di nullità sulle donazioni, vuol dire che prima di tutto viene il fabbricato e dopo vengono gli interessi dei privati. Ecco, secondo me è un po' sproporzionato. Quando mio padre dona a me un fabbricato o io lo dono a mio figlio, insomma, che ci sia l'APE o no, ci sarà la prossima puntata, ci sarà la volta che mio figlio rivenderà l'immobile. Tutti gli immobili nuovi devono avere l'APE per definizione, quindi insomma con un po' di tempo l'APE doterà tutti i fabbricati. Che senso ha in queste ipotesi marginali? Io sono nudo proprietario e mi compro l'usufrutto, io sono usufruttuario e mi compro nudo proprietà, possiedo i 2/4, mi compro gli altri 2/4, sono tutti casi un po' marginali dove... Che non sono stati comunque dal punto di vista legislativo disciplinati La regione Lombardia li disciplinava e li esonerava correttamente, non c'era la sanzione dell'unità, c'era una sanzione amministrativa pecuniaria, però correttamente erano disciplinati. Ecco, tutta questa parte delle leggi regionali, questa parte che attiene alla validità civilistica dei contratti, viene travolta dalla legge nazionale. Insomma, è talmente complessa la materia, Cristiano, che per non saperne leggere né scrivere, dico io, vale sempre la pena comunque a qualunque tipo sia appunto la traslazione che viene fatta, è bene appunto avere questo documento. Diciamo che fino a un certo punto, nel senso che nella misura in cui ci sono delle eccezioni vale la pena di sfruttarle. Certo, è bene che chi si accinge a stipulare un atto si faccia consigliare nel modo corretto. Ad esempio abbiamo visto prima l'esempio di un rustico del tutto privo di impianti di riscaldamento, quello lo si può tranquillamente comprare senza attestato di prestazione energetica. Chissà chi gli ha suggerito di fare questo documento? A Max da Pinerolo vorrei che ce lo precisasse. L'ipotesi potrebbe essere che poi non era così rustico come diceva prima il notaio, nel senso che se cominciava a esserci un impianto di riscaldamento, magari l'immobile aveva bisogno soltanto di qualche lavoro di ristrutturazione, allora in quel caso l'attestato era dovuto. Ecco. Ma quanto costa sto certificato? È anche una domanda che si fanno altri ascoltatori che ci hanno scritto. Questa è una bella domanda perché sul mercato ci sono prezzi molto diversi e si va da poche centinaia di euro fino ad alcune migliaia. In realtà il prezzo corretto dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia. Mm-hmm. Poi abbiamo visto, adesso dipende non per fare anche pubblicità, chiaramente il tipo di immobile, magari, perché un appartamento forse parliamo, avrà un certo tipo di rilevazione. Parliamo da in fare. Linea di massima certo, di un appartamento di medie dimensioni. Esatto. Abbiamo visto però nei mesi scorsi, adesso la cosa è un po' rientrata, che si trovavano anche offerte super scontate di attestati offerti su siti come Groupon e così via. Poi lì è chiaro che dipende sempre da ciò che si va a comprare, insomma, in genere un prezzo molto basso dovrebbe far diffidare della qualità. No, vorrei perché... anche dire che alla luce del fatto che adesso diventa obbligatorio pena la nullità di un contratto appunto di compravendita, è chiaro che magari se su Groupon dovessero proliferare delle offerte qualcuno ne approfitta e dice tanto perché lo devo fare per forza, sai che ti dico, spendo poco, mi prendo queste offerte, notaio. E poi voi controllate la qualità del certificato durante il rogito? Non siamo in grado e ne dobbiamo controllare quanti termosifoni ci vogliono in un appartamento, ovviamente. Il tema però, voglio dire un altro, che forse sfugge ai non addetti ai lavori. Questo certificato, questo attestato di prestazione energetica, a differenza del passato, oggi consiste in un, virgolette aperte, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Vuol dire che se è falsa o se porta dati non veritieri, non faccio riferimento all'errore, Se è falso o porta dati non veritieri del tipo il tecnico non è andato a vedere l'appartamento e quindi non lo può certificare, essendo diventato, non lo era prima, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c'è una sanzione penale che assiste il fatto che il certificato sia falso o non fatto in modo veritiero. Allora, Presidente Sforza Fogliani, non mi sono dimenticata di lei, solo che ci siamo fatti un po' prendere la mano dai primi spunti appunto che questa questione ci poneva. Adesso vengo da lei, però siccome abbiamo fatto diventare un caso la situazione di Max da Pinerolo, lo abbiamo chiamato naturalmente perché vogliamo capire, Max, buongiorno, che tipo di rustico ha acquistato appunto e perché ha dovuto richiedere l'attestato di prestazione energetica. Buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie. Ecco, allora è un rustico praticamente semi diroccato e per effettuare il rogito mi è stato richiesto o questo certificato o in alternativa una dichiarazione di inagibilità. Altrimenti io senza questo attestato avrei potuto avere poi in seguito dei problemi per quanto riguarda l'eventuale ristrutturazione e l'utilizzo di questi locali. Allora, notaio Busani, ha le idee più chiare sul caso di Max? Sì, recito solo il testo letterale della norma. Non vogliono certificare attestato di prestazione energetica, virgolette aperte, gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico. Max, chi glielo ha chiesto? Beh, in questo caso ci è stato richiesto dal notaio, io poi mi sono informato anche presso... Molto scrupoloso il collega di Busani, per cui giustamente lei dice perché devo far saltare questa trattativa. No, ma attenzione, questa norma vige dal 4 agosto in avanti e in Piemonte poteva essere derogata ante 4 agosto da norme locali, quindi non è così facile ed è probabile che se è stato chiesto era dovuto. Io abitiamo in un comune dove sono molto rigorosi con queste cose. Allora. E l'abbiamo... Max, mi racconta quanto ha speso per questo documento? Intorno ai 400 euro. Benissimo, siamo in linea sulle indicazioni che davamo con Cristiano Dell'Oste. Grazie, si gode il suo rustico naturalmente. Grazie, e bravo per aver fatto questo investimento. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Raccontavo e ricordavo appunto all'inizio del programma come quando questo emendamento appunto del Movimento 5 Stelle è stato presentato ad inizio agosto, durante la conversione in legge appunto del pacchetto sui bonus casa, e Confedilizia si è subito sollevata perché ha detto: ma insomma, già c'è tutto questo regime così differente in tutta Italia a livello regionale, adesso addirittura rischia che ogni contratto di locazione in questo caso salti se questo certificato non viene allegato appunto alla stipula del contratto. Sapete che c'è, blocchiamo tutti i contratti in firma e adesso vediamo se il governo cambia idea. Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, cos'è successo in queste due settimane da quando avete dato e imposto l'ALT a tutti i contratti di locazione che erano pronti alla firma presso le vostre sedi territoriali? Finora assolutamente niente, ma mi permetto prima di tutto di salutare il notaio Busani e l'espertissimo dell'oste per tutta la collaborazione che danno anche a noi con la loro letteratura in materia. Dicevo, non è successo assolutamente niente, nonostante che si sia da parte nostra ottenuto l'impegno del governo ad inserire la cancellazione, ad abrogare la norma sulla nullità al primo provvedimento utile. I primi provvedimenti utili, dato che occorreva per poterla abrogare che la norma entrasse in vigore, fosse pubblicata sulle gazzette, eccetera, i primi provvedimenti utili verranno adesso, a parte la situazione politica. Esatto, che è un altro bel punto interrogativo anche, certo, questo. Prescindendo da questo, verranno con i consigli dei ministri del 23 o del 28 o addirittura con il decreto casa che sta preparando il ministro Lupi. Premesso questo, io credo che occorra sottolineare due elementi. Primo, che l'attestato di prestazione energetica, cioè quello stabilito dalla nuova direttiva recepita dall'Italia, non può oggi essere rilasciato perché, come è già stato ricordato, mancano i provvedimenti attuativi. Primo presupposto di fatto. Secondo presupposto, la norma sulla nullità recita testualmente: l'attestato di prestazione energetica non può essere, deve essere allegato pena la nullità, eccetera. Quindi fa specifico riferimento all'attestato di prestazione energetica e stabilisce una nullità. Quindi siamo nell'ambito di una norma che invade la competenza dello Stato, trattandosi di ordinamento civile, è indubitabile che si tratti di una norma di competenza esclusiva dello Stato, che non può essere superata da una norma di rango inferiore quale è una legge regionale. Tutte le normative in materia di certificazione energetica, diciamo così genericamente, che sono vigenti in Italia e che combinano un caos mica da poco, si riferiscono comunque alla certificazione energetica. Nessuna di queste norme regionali stabilisce e potrebbe stabilire la nullità. Quindi in pratica la norma sulla nullità di competenza statale non ha nulla a che fare con le varie normative regionali che attengono alla regolamentazione della certificazione e della dotazione, poi la clausola dice. Questa è la vostra posizione, Presidente, che quindi avete manifestato al governo. E quindi noi, anche per non far correre rischi direttamente alle nostre associazioni e ai conduttori e proprietari, abbiamo suggerito alle nostre associazioni di non stipulare contratti di derogazione, tutt'al più faranno dei preliminari obbligatori. Perché non è caso, che qua se una persona deve andare alla vita. Non si può rischiare sulla base di interpretazioni che, a mio modo di vedere, sono anche molto dubbie, fermo il principio che si tratta di una norma dell'ordinamento civile di competenza esclusivamente statale. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, siamo ripartiti con le nostre dirette di Salvadanaio. Dopo due settimane di stop abbiamo scelto di affrontare un tema legato alla casa, che, come ricordavamo, è il vostro tema in assoluto preferito. E di che cosa parliamo oggi? Di una novità che è stata introdotta dal decreto 63 di quest'anno, è il famoso decreto sui bonus casa. E la novità è relativa all'introduzione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica, che ha preso il posto dell'ACE, l'attestato di la certificazione energetica sostanzialmente. E perché c'è stata questa sostituzione? Non è questa la questione rilevante. Il fatto è che vengono sanzionati tutti quei contratti che non hanno allegato questo documento, contratti di compravendita immobiliare, contratti di locazione, anche i contratti di donazione. Tutti aspetti che stiamo cercando di chiarire questa mattina, perché chi tra di voi magari è in procinto di sottoscrivere proprio un contratto di affitto, sia perché è la persona che deve andare ad abitare in questa abitazione, sia perché sia un proprietario che deve affittare questa casa. Chi invece sta cercando magari il mutuo per la propria casa e tra un mese deve andare a rogitare e conosce proprio oggi questa novità e magari un po' si preoccupa perché di questo documento nessuno ha parlato in trattative. Allora, tanti aspetti da chiarire. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Concretizziamo subito ancora di più il nostro programma, risponderemo con i nostri ospiti alle domande. Intanto di Fulvia dalla provincia di Ravenna, che saluto. Buongiorno Fulvia e bentrovata. Buongiorno a tutti. Ci dica. La mia domanda era questa: che cosa ha stabilito il decreto che è entrato in vigore il 4 agosto? Chi è la persona fisica, geometra, ingegnere, architetto o un ente particolare che deve certificare questo APE? Fulvia, grazie, le rispondiamo tra poco. Ci metterei insieme anche un altro paio di domande, così almeno a batteria rispondiamo a tutti. Lorenzo dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei chiedere se questa vespa molesta tutte ape grande deve veramente essere aggrappata al contratto e poi se vale anche nel caso in cui io volessi affittare solo una parte del mio grande, troppo grande appartamento che abito come singolo. Che ne so, quindi per esempio, non so, arriva uno studente, sì. Lorenzo, a Vicenza, non lo so se lì ci sia qualche sede universitaria interessante da frequentare, però ecco, è giusto appunto, un'osservazione pertinente, oppure vuole ospitare qualcuno. Lorenzo, la ringrazio, anche questa è una domanda molto interessante. Ci metto insieme anche Giorgio D'Asti, così completiamo il quadro, peraltro non tanto completo perché gli aspetti sono molti, ma sul tema delle locazioni, perché questa è la vera, vero bubone di tutto il tema. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Asti, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Aspettavo che voi trattaste questo argomento perché ero qua che friggevo in quanto sono sui carboni ardenti e non so che cosa fare. Il problema è questo: contratto di affitto stipulato all'inizio mese con l'inquilino, stipulato direttamente, quindi eravamo assolutamente all'oscuro di questa di questa notizia, di questa nuova legge che stava, che era lì in preparazione, che ribolliva lì in pentola. E il nostro contratto è da registrare entro il 30 di agosto, quindi tra pochissimi giorni. Io ho sentito l'agenzia delle entrate, le quali praticamente come al solito non mi hanno saputo dare un'indicazione. Guardi, precisa. C'è già Cristiano Dell'Oste che lo immaginava, scuoteva la testa e diceva tanto non gli avranno detto niente perché non lo sanno. No, ecco. Mi ha detto ma qualcuno presenta l'ACE, se lei non ha l'APE, insomma, lei provi, poi dopo al massimo gli annullano. E vabbè, ma se non facile per loro, tanto mica ci devono andare loro. Esatto, noi invece avremo tantissime problematiche, tra l'altro ho preso prima che ci sono anche delle sanzioni, cioè non c'è solo l'annualità, ma ci sono anche le sanzioni, per cui diventa un problema. Allora, io praticamente non ho fatto ancora questa richiesta dell'APE perché sono venuto a conoscenza del fatto che tramite il Sole 24 Ore ho saputo che la Confedilizia ha mosso tutte le proprie rimostranze sentito prima. Allora a questo punto ho detto mi fermo e sento un pochettino. La mia domanda è stata: che cosa faccio? Dice lei, mi devo sbrigare oggi il 26 entro la fine della settimana? Lo faccio? Giorni, oppure faccio lo gnorri? Ed aspetto perché ho ancora una possibilità alla quale poi non so se vi devo certo appellare. Se intervenisse qualche modifica alla norma. Ecco, avrei ancora una possibilità di posticipare la registrazione, pagando poi fra tre mesi le sanzioni previste dalla legge. Giorgio, però, la fermo ecco, perché lei è un fiume in piena, però insomma il nocciolo della questione abbiamo capito e notaio Busani si candida a rispondere. Cominciamo subito con quest'ultima situazione di Giorgio che deve risolvere il suo problema entro pochi giorni. Che cosa gli facciamo fare? Glielo facciamo fare in un paio di giorni questa attestato di prestazione energetica o no? Io do una risposta da notaio. Sì. Il contratto è stato stipulato. Non è una questione di quando si registra, è una questione di quando è stato stipulato. Se quando è stato stipulato vigeva questa legge, cioè il 4 agosto, quel contratto lì è nullo. Quindi va ristipulato, quindi va risolto quel contratto e quindi va ristipulato nuovamente in una data pari o posteriore a quella in cui l'attestato di prestazione energetica o di certificazione energetica, che dir si voglia, verrà datato dal tecnico che lo rilascia. Forse Giorgio ce l'aveva anche detto. Quando è che ha stipulato Giorgio l'atto? Io l'ho il contratto? 4 di agosto. Cioè, guardi, proprio veramente, quando si dice la sfortuna, Giorgio. Quel contratto lì è nullo, non è questione di quando lo si registra, perché lo registro oggi, lo registro 20 giorni. Sì, ma lui il 4 agosto, poveretto, quel giorno è andato a firmare questo contratto e quel giorno... Non c'è la pena di morte, credo che nessuno, ce l'avrà con lui. Io dico, dal punto di vista civilistico, vi do una risposta da laboratorio. Quel contratto lì è nullo, quindi non vale, come se non fosse stato fatto. Va risolto, si fanno due righe di risoluzione tra il locatore e il conduttore, si dice quel contratto lì lo risolviamo, lo sostituiamo con un altro valido, attenzione che se lo datiamo 27 agosto, il certificato energetico deve sussistere al 27 agosto, mica posso stipulare un contratto il 27 agosto e appiccicarci un certificato il 2 di settembre. Allora, se glielo facciamo, se oggi Giorgio si attiva, cerca un professionista che gli fa la certificazione in un paio di giorni, può andare a risolvere questo contratto mercoledì, giovedì, Cristiano, che ne dici? Ma direi di sì, anche perché il contratto non è stato ancora registrato, quindi le due righe di cui parla il notaio se le fanno tra, come dire, tra proprietario e futuro inquilino, insomma, in qualche modo. Sì, in teoria bisognerebbe registrare anche i contratti che vengono risolti, però ripeto, non stiamo a fare i troppo precisi. No, perché... risolvano quel contratto, lo annullino con due righe scritte, ne rifanno un altro avendo sul tavolo il certificato. E la tra l'altro in Piemonte sul sito della regione c'è un elenco di certificatori abilitati suddiviso per città, quindi lo trovano per la zona di Asti presumibilmente, si fanno fare il certificato nel giro di una decina di giorni al massimo, il professionista glielo prepara, se gli fanno fretta magari anche più rapidamente, fanno il contratto e a quel punto lo registrano e sono al sicuro. Anche perché tra l'altro, possiamo dire anche questa cosa, il Piemonte era una delle due regioni che già prima del 4 agosto imponeva l'obbligo di dotare tutti gli affitti di certificazione energetica. Max da Pinerolo ce l'aveva detto che là sono rigidissimi. Peraltro, e quindi si erano peraltro già non era prevista, non era prevista la nullità, ma soltanto una sanzione pecuniaria amministrativa che in questo caso andava da 500 a 5.000 euro per contratto. Tra l'altro, il fatto che il nostro ascoltatore non lo sapesse vuol dire anche che poi questi obblighi, soprattutto sulle locazioni, erano intesi in modo piuttosto blando, cioè purtroppo in Piemonte si affittavano prima del problema della nullità parecchie case senza dotarle di certificazione energetica. Ora con la nullità il problema diventa molto più serio e su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro adesso risponderemo anche alle altre due questioni in sospeso dei nostri altri due ascoltatori, Fulvia da Ravenna e l'altro ascoltatore di Vicenza, appunto, che chiedeva cosa devo fare se voglio affittare una stanza della mia abitazione. Però, Presidente Sforza Fogliani, un altro aspetto è anche interessante. Adesso l'ascoltatore che ci ha chiamato prima da Asti deve risolvere nel giro di pochi giorni questa situazione. Chi la paga tra l'altro questa certificazione adesso, visto che lui deve farla forzatamente, altrimenti il contratto appunto non può stipularlo regolarmente, le spese si dividono fra conduttore e locatore? L'attestato è a carico del proprietario in caso di locazione, ma io non consiglierei al al proprietario di stipulare un contratto di locazione allegando non l'attestato di prestazione energetica ma l'attestato di certificazione energetica, perché è una cosa diversa. L'attestato di certificazione energetica lo metterà così in pace a riguardo della normativa regionale. Ma a riguardo della normativa nazionale, e cioè di quella sulla nullità, che prevede l'attestato di prestazione energetica, la normativa regionale, come ho cercato di dire nella prima parte della trasmissione, a mio modo di vedere non ha rilievo. La nullità permane anche con l'allegazione dell'attestato di certificazione energetica e l'attestato di prestazione energetica non può procurarselo per Presidente, qua che però abbiamo detto, quindi la soluzione secondo me è risolvere, come ha già osservato il notaio Busani, il contratto già stipulato il 4 agosto. Se si vuole essere perfettamente in regola si dovrebbe ritornare all'Agenzia delle Entrate con si provvida dei consigli e registrare la risoluzione. Poi si fa un preliminare di contratto di locazione che si potrà fare quando sarà chiarita la cosa o addirittura subito. Lo so, ma quante volte deve tornare su questa questione il nostro amico? Cioè, allora, qui lei mi dice, a mio parere, secondo me, qui bisogna fare però la cosa corretta. Perché gli altri cosa dicono? Io dico a mio parere, secondo me, e gli altri cosa dicono? Notaio ce l'ha detto, appunto, secondo lui dovrebbe essere fatto l'attestato di prestazione energetica, altrimenti quel contratto è nullo. Vogliono correre dei rischi, li corrono pochi, pure io dico fate la risoluzione, fate un preliminare di locazione e appena sarà eliminata la norma farete il contratto vero e proprio, che è quello che vi metterà. Perché voi siete convinti che verrà eliminata la clausola di nullità? Certamente. Ci mette sicuro e non corre nessun rischio interpretativo, perché le interpretazioni sono sempre poi discutibili tutte quante. Allora, volevamo tentare di chiarire un po' le idee. L'ascoltatore di Asti che ci ha chiamato poco fa deve registrare un contratto d'affitto che è già stato stipulato con la persona a cui ha affittato questa abitazione il 4 agosto, proprio nella giornata in cui abbiamo cominciato a parlare di questo maledetto emendamento che ha introdotto la nullità dei contratti o di compravendita o di locazione che non abbiano allegato l'APE, l'attestato di prestazione energetica. Pensa come ho spiegato tutto bene, Cristiano. Insomma, di fatto però a questo ascoltatore abbiamo dato due interpretazioni un po' diverse su come potrebbe risolvere la situazione, lo abbiamo un po' confuso. Cristiano, ti assegno il ruolo di arbitro, tu che cosa faresti? Ma diciamo che bisogna un pochino distinguere tra le soluzioni appunto che argomentano in punta di diritto e quelle che offrono una via d'uscita pratica. Nel caso specifico, peraltro un po' lo si capiva anche insomma tra le righe dell'intervento di Sforza Fogliani, visto che si trova in Piemonte deve intanto mettersi in linea con la normativa regionale ed evitare che quella sanzione da 500 a 5.000 euro gli caschi con sulla testa. Con buona pace quello che dice il Presidente. Quindi, di Confedilizia, che c'è la legge statale più forza su quella regionale. In questo caso purtroppo la sanzione regionale c'è e qualcuno potrebbe anche applicargliela, quindi intanto essendo in Piemonte deve fare la certificazione energetica diciamo vecchia maniera, perché poi tutto questo problema nasce dal fatto che con il decreto legge 63, quello di giugno, che poi è stato convertito con tutti i problemi che sappiamo, si è dettata l'APE, quindi l'attestato di prestazione energetica, senza avere ancora pronte le modalità di calcolo. Certo. E quindi nelle more dell'adozione delle nuove modalità di calcolo si continua a calcolarlo come il vecchio ACE e si continua a calcolarlo con modalità che sono in certi casi anche diverse da regione a regione. Allora in questo caso, essendo in Piemonte, direi che si attenga intanto alla normativa regionale che c'era e c'è. Quindi risolva il contratto vecchio, le rifaccia uno in tempi rapidi e soprattutto in questi 2-3 giorni Poi, ci possono essere anche delle tesi interpretative che non è che possiamo smentire a priori, però ci muoviamo su un terreno molto scivoloso e delicato. Allora abbiamo 8 minuti di tempo adesso per rispondere a tutti gli ascoltatori. Intanto l'ascoltatrice di Ravenna dice: esatto, chi deve farmi questa certificazione? Intanto dove trova il professionista? Perché magari di amici architetti e ingegneri ne abbiamo tanti, ma non tutti hanno la competenza per fare questo documento. Allora, qui è una cosa a cui abbiamo accennato già prima. Ci sono delle regioni, la Lombardia è una di queste, il Piemonte un'altra, l'Emilia Romagna un'altra ancora, che hanno dettato dei criteri su base territoriale per abilitare i tecnici che possono rilasciare l'ACE e poi in futuro che rilasceranno l'APE. Quindi in questi casi si trovano su internet degli elenchi molto completi, addirittura come dicevamo divisi per città, di tecnici. E quindi è abbastanza semplice. Magari la cosa. Sul sito anche internet della regione. Assolutamente. Sì, basta scrivere insomma regione certificazione energetica su Google e si arriva abbastanza facilmente. L'altra persona, abbiamo completato sull'altro. No, dicevo, poi sul resto del territorio nazionale ci sono anche qui su internet vari siti che aggregano una serie di elenchi di professionisti, o altrimenti ci si può affidare al passaparola o ancora rivolgersi alle associazioni territoriali dei proprietari di case. Insomma, bisogna un pochino attivarsi perché in molte altre regioni non ci sono elenchi ufficiali, però in genere ingegneri, geometri, termotecnici, architetti sono tutti professionisti che con varie declinazioni sanno fare e fanno la certificazione. Allora, notaio Busani invece, l'ascoltatore che abita a Vicenza, una casa molto grande. Ma io posso intervenire o no mai? Io non posso mai intervenire. Presidente, perché volevo solo rispondere agli ascoltatori che ci hanno posto dei casi concreti. Sì, no, ci mancherebbe che non la faccia intervenire. Volevo anche chiarire perché io sono qua isolato e io non discuto che se l'ascoltatore di Asti vuol fare a tutti i costi il contratto correndo i rischi che corre, lo faccia e sia in regola, come diceva Dell'Oste, con la normativa regionale. Ma con la normativa statale sulla nullità non è in regola. E questi due sono piani totalmente diversi, come ho cercato di dire nel primo intervento. Quindi che debba mettersi d'accordo con la normativa regionale è un fatto. Che questo lo proservi dalla nullità, no. Questo voglio dire Dell'Oste. E a Busani soprattutto, che aveva dato la prima ricetta per sistemare la situazione, le devo dare la risposta a Busani. Dunque io, anche se non lo vedo probabilmente da 15 anni, ho troppa stima dell'avvocato Sforza Fogliani per contraddirlo o per mettere in dubbio argomenti di tipo giuridico che, come è noto agli addetti ai lavori, sono visibili da tante sfaccettature. Io però ragiono da notaio, non ragiono da politico, non ragiono da presidente di organizzazione di categoria. Ma io in questo momento neanch'io. e dico solo, se fosse un contratto che dovessi stipulare io, perché non è vietato andare dai notai a fare locazioni, ovviamente non ci va nessuno perché costa. Sì. Noi facciamo solo locazioni di grande portata o di grande complessità. Dico, se venissero da me oggi pomeriggio a fare un contratto di locazione, io non avrei dubbi a obbligare chi loca a portarmi sul tavolo il certificato energetico. La nostra dottrina, quello che si è scritto per ora in questo mese, le nostre guide operative, la nostra deontologia, non ultimo il rischio di questa sanzione micidiale che ci graverebbe sulle spalle se non adempissimo i nostri doveri, vogliono che la prudenza sia quella di allegare il certificato detto APE o ACE, la stessa cosa, perché crediamo che la norma statale voglia dire oggi nullità se non c'è il certificato. Con tutto il rispetto delle tesi altrui, in particolare di quelle dell'avvocato. Ma in maniera molto pacifica, ci mancherebbe qualche volta... Però questa è una interpretazione, quindi si corre sempre questo rischio e rimane a carico non del notaio, ma di chi ha fatto il contratto. Certo, ha stipulato il contratto. Cristiano, l'ultima parola, poi qua riusciamo ad andare avanti. Mi pare che la lezione che si può trarre da queste tesi, che hanno tutte una dignità giuridica e interpretativa, che purtroppo il legislatore ha creato un bel pasticcio. C'era prima un'ascoltatrice che chiedeva chi ha stabilito che è entrata in vigore proprio il 4 agosto. L'ha stabilito banale principio per cui le leggi, in questo caso una legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3, entra in vigore il giorno dopo. Il problema è che queste sono questioni che riguardano appunto la validità dei contratti, il diritto civile, che non avrebbero ragione di essere disciplinate con un decreto legge. Pensiamo che la riforma del condominio, che ha appunto un grosso impatto sul diritto civile, ha avuto una vacatio legis, cioè un periodo di adeguamento di 6 mesi. Ora, magari in questo caso 6 mesi erano persino eccessivi, però è chiaro che se alla vigilia delle ferie si disciplina la nullità dei contratti, poi ci sono un sacco di proprietari che si trovano in grossa difficoltà. Azione irresponsabile è poco. Allora, io ho una marea di casi interessanti. Questa stanza quale? La stanza del poveretto di Vicenza che vuole affittare. Il poveretto di Vicenza c'è poco da fare, allora, ha bisogno dell'APE il nostro ascoltatore per affittare anche una persona di casa. Uno studente che arriva a Vicenza deve avere l'APE sul tavolo, non c'è poco da fare. Perfetto, punto e basta. Allora, invece deve avere l'APE sul tavolo che non può avere, però. Ecco. Presidente, abbiamo capito perfettamente come la pensa, la sua azione di lobby in diretta che sta facendo dai microfoni Salvadanaio. Se non ci fosse stata la Confedilizia a denunciare la cosa, certo, neppure i parlamentari che hanno votato hanno capito la dirompente. Ma io vorrei conoscere anche questo parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha presentato chi gliel'ha consegnata questa idea, peraltro mi piacerebbe sapere. Anche il relatore che ha dato parere favorevole. Esattamente. Il sottosegretario dell'economia che ha dato parere favorevole. Vorrei vedere con che testa hanno ragionato tra il 1, il 2 e il 3 agosto appunto per presentarci questo scherzetto il 4. Allora rapidamente Luigi da Modena, molto veloce deve essere, grazie, così rispondiamo anche a lei. Buongiorno, una sola domanda, volevo sapere se sa attestato si deve fare anche se la casa ce l'ho in agenzia da vendere o la posso fare una settimana prima di andare a Rodi. Luigi, la ringrazio, bellissima domanda anche questa. Allora, notaio, praticamente questo signore ha consegnato all'agenzia immobiliare appunto, chi ce lo deve avere questo contratto? Lo deve consegnare alla gente? Risposta secca molto facile, per il contratto preliminare, per la proposta non occorre l'APE in quanto alla validità della proposta del contratto preliminare, però la legge nuova dice che il proprietario deve mettere a disposizione di ogni potenziale acquirente l'APE del fabbricato che mette in vendita. Il giorno del rogito però questo documento deve essere sul tavolo del suo collega notaio. Allora, la scansione degli eventi è la seguente: decido di mettere in vendita l'appartamento, devo avere l'APE, lo devo dare a chi me lo chiede, non lo devo allegare al contratto preliminare. Perfetto. Lo devo allegare al rogito. Però ecco, un buon agente immobiliare intanto subito chiarisce le idee al proprietario. No, ma l'agente immobiliare quando mette in vendita l'appartamento, nel cartello che mette fuori dalla vetrina deve segnalare l'esistenza dell'ACE e la prestazione energetica del fabbricante. Molto bene, allora non ce la facciamo a sentire qualcun altro? Sì, figuriamoci, Paolo introduceva il tema della successione, della donazione, anche questo è un gran bella grattacapo. Per fortuna si può morire senza APE, questo è scontato. Però se io avessi in eredità da uno zio molto ricco un'abitazione, appunto, qui no, l'eredità è un conto. Una donazione? Invece la donazione, abbiamo detto prima, ci vuole assolutamente l'APE. Allora, no, forse ce la facciamo a sentire un altro ascoltatore. Vediamo Giorgio da Rimini, ma proprio telegrafico, Giorgio. Buongiorno, io ho due contratti di affitto a tempo determinato che mi scadono a fine settembre, stipulati 2 anni fa. Tra l'altro ultimamente ho optato per la formula della cedolare secca. Perché sono Giorgio, rapido, dobbiamo capire cosa deve fare con questi contratti in scadenza. Non ho mai allegato né l'ACE né l'APE. La salutiamo, grazie notaio, deve aspettare i primi di settembre. No, se questi contratti sono in scadenza e quindi li rinnova, la legge contiene esonero per il caso del rinnovo dall'APE in questa specifica fattispecie. Se invece i contratti non saranno un rinnovo ma saranno un nuovo contratto, quindi il rinnovo non è colpito dalla clausola eventuale di nullità se non ha allegato l'APE. Esatto, proprio. Perfetto. Così. Grazie a Cristiano Dell'Oste, Angelo Busani e presidente Corrado Sforza Fogliani di Confedilizia. Torniamo prestissimo su questi argomenti, promesso. A tutti buona giornata.